Questo programma è presentato da Florian Cine TV e Radio Città Fujiko 103.1 FM con il patrocinio del Comune di Bologna e di Bologna UNESCO City of Music. Buon pomeriggio e buon anno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko da Valeria Lopa. E proprio mentre attendiamo il ritorno dei concerti dal vivo, ci godiamo un po' di concerti radiofonici qui su Radio Città Fujiko, con The Show Must Go On, il programma dove ogni settimana i più promettenti artisti dell'Emilia-Romagna si esibiscono in concerti radiofonici. L'ospite di oggi si avvicina al mondo dell'hip hop all'età di 16 anni. Si fa spazio nella scena locale aprendo i live di esponenti di spicco del rap italiano e anche nei principali contest di freestyle nazionali, oltre alla pubblicazione di vari album di successo. Nel 2017 incontra Andrea Turone in arte Turo e da lì hanno iniziato la loro collaborazione. Il suo nome d'arte è sempre stato oggetto di curiosità ed aspettative e adesso capirete perché. È qui con noi a The Show Must Go On, Messia. Ciao, ciao a tutti, grazie, è un piacere essere qui assieme a Turo, qui con me. Ciao, ciao a tutti, è un piacere. Ciao Alberto, ciao Andrea, benvenuti. Alberto, il tuo vero nome è Alberto Pizzi, in arte Messia. Ed effettivamente è un nome che suscita curiosità. Come mai questa scelta? Beh, è un nome che ho scelto ormai quasi 15 anni fa. Quindi negli anni ha cambiato significato e senso anche per me. E diciamo che col tempo è diventato una sorta di tema attorno a cui colleziono idee, raccolgo pensieri, input, tutto quello che può, diciamo, essere utile al processo creativo. È ovviamente un'identità artistica e va intesa in quanto tale, ecco, non è che io mi prenda molto sul serio, però allo stesso tempo non è neanche una cosa, una gag, diciamo, ma è qualcosa che secondo me su cui ha senso riflettere seriamente, pur sapendo che insomma si fa per gioco, ecco. Oggi ascolteremo alcuni tuoi brani, tra cui due inediti in anteprima, e proprio da uno di questi vorrei partire. Ok, benissimo, sì, abbiamo deciso di portare due inediti, oltre ad altri brani che sono già stati pubblicati, perché appunto con Turo abbiamo lavorato insieme in studio, nel suo studio, in questi anni, e prodotto diversi brani. Alcuni sono già usciti, ma ce ne sono altri che ancora non hanno visto la luce, ma la vedranno molto presto, quindi eravamo, diciamo, anche noi scalpitanti e desiderosi di portarli già fuori così, in una veste esclusiva, in anteprima, in acustico. E noi siamo molto curiosi, con vicino a The Show Must Go On, Messia. Sono giorni in cui mi dico devo. Non dovrei, quindi mi dico voglio, invidio l'erba del vicino. Se non è un re Tiger Woods, il suo giardino è un green. Tira in buca, si prende l'eagle. Io ho provato a fare un tiro da quella di un mio amico e ci sono riconosciuto il sapore. Non mi è piaciuto, ho provato a cambiare giro eppure a cambiare cibo, ma non è servito. Il malumore non è svanito, mi vedo scivolare liscio come con lo svitol e invece mi avvito. Mi vedo divo, ma da grande farò il fallito, nego ciò che dico di continuo, divido il video se gli opposti non convivono. È tutto giusto o sbagliato, in casa accumulo pensieri, ho fatto il cumulo ormai, sepolto vivo, è tutto come ieri, ma dico vedi sono cambiato, domani è un giorno nuovo e così riparte il ciclo. Grande, farò il fallito. Sono cambiato, domani è un giorno nuovo. Riparto il ciclo, la cosa che più mi critico è il fatto che mi autocritico, che scappo in auto, poi mi isolo. È un autoscatto nitido e non è chiaro se mi limito, se li imito, se sono solito essere solido, gassoso, semiliquido. Solitamente non muovo un dito se non per essere come dicono, e se si voltano sono sparito, chiedo di essere indefinito. I limiti circondano, a volte poi ritornano. Ringrazio il vino che è mio amico, c'è un nuovo vicino, restatemi vicino, lo considero un pessimo amico. Ciò nonostante lo descrivo e gli sorrido, salve, buongiorno, poi mi volto, lo derido, spero di non rivederla, buon pomeriggio. Ci sono giorni in cui dimentico le cose che davvero contano, i soldi, il successo, scopare. Fortunatamente poco dopo le ricordo, torno a ciò che devo fare, tutto può restare identico. Tutto può restare identico, tutto può cambiare, può mutare in un momento, oppure puoi mutare tutto per lasciare tutto identico. E tutto può restare identico, tutto può cambiare, può mutare in un momento, oppure puoi mutare tutto per lasciare tutto identico. Lasciare tutto identico. Per lasciare tutto identico. Il prossimo brano, Alberto, si intitola Tu ed appartiene all'album C'è dell'altro. Ed una curiosità su questo album è che i titoli delle 5 tracce sono dei pronomi personali. Sì, esatto, questo è un po' il concept di questo EP di 5 brani. E le tracce sono dei pronomi perché l'idea era proprio quella di giocare con i pronomi, che sono parole che non hanno un referente fisso, no? Ma cambiano di referente a seconda del contesto e di chi le utilizza. Cioè, se io dico io, mi sto riferendo a me, ma se lo dici tu, non stai più riferendoti a me, ma ti riferisci a te stessa. E quindi uguale per tutti i pronomi, no? Un po' come se fossero delle parole vuote che acquistano senso in base al contesto e a chi le usa. E quindi l'idea di C'è dell'altro era proprio quella di prendere queste parole vuote, come se fossero degli scatoloni, e riempirle con i significati che avevano per me in quel momento della mia vita, con l'intento, diciamo, di fare una sorta di mappatura dell'identità. Questo è un po' il tema di C'è dell'altro, è l'identità alla fine, il tema centrale. Ovviamente è un fallimento del marketing, lo dico sempre, perché tutti si confondono i titoli coi brani, nessuno si ricorda quale titolo e quale brano, ma vabbè, fa parte un po' della... era un rischio a cui sono andato incontro volentieri. Messia a The Show Must Go On con il brano Tu. Mi ritrovo al punto di partenza, la differenza in questione è tra sofferenza e amore, come la sensazione che tu mi dia sicurezza, e così facendo tu mi stia togliendo indipendenza. Ho trovato una fortezza, nel giro sul torrione ho il terrore dell'altezza, ti cerco nella nebbia, oltre la coltre spessa scruto la steppa, dalla fortificazione dell'apparenza. Ci troveremo e sarà noto che il vuoto che annoto è solo un tocco d'ignoto nel gioco, solo un tremore del fuoco, fragore innocuo da un luogo remoto, l'oscillazione nel moto che mi spaventa. Non ha senso, la tua assenza mi divora, nuova Roma, essenza nel vento che mi ritrova, nuovo accento, tu muti il senso della parola, ora che cercarti ancora è un'ancora di salvezza. Non hai una posizione sopra le cartine, ma il confine dov'è? Il confine dov'è? Tu puoi sfuggire allo schema di queste linee, ma il confine dov'è? Il confine dov'è? Un nuovo mondo che ancora devo scoprire, ma il confine dov'è? Il confine dov'è? Se puoi scoprire significa definire quel confine dov'è? Il confine dov'è? Oltre gli ostacoli ricerco valichi appositi, dai pinnacoli ai luoghi più esotici cerco motivi validi. Siamo due poli carichi nascosti ai poli opposti pur di restare autonomi. Io sono un nomade dai margini delle metropoli, mando segnali usando un codice, tu se vuoi scava tra le figure, indaga le mie paure, i troppi mi seppelliscono per chilometri, misuro in pollici la strada, la mia domanda mi comanda, manda dai tropici al Ghana, dall'Andalusia si abbassa fino a Panama, sai, la matassa non si dipana mai nella dolcezza di un'indagine amara. Sai che il sale fa male, rende cartagine il Sahara, la tua immagine si allontana, poi si rischiara, è il dubbio che tesse la trama che ci separa. Non hai una posizione sopra le cartine, ma il confine dov'è? Il confine dov'è? Tu puoi sfuggire allo schema di queste linee, ma il confine dov'è? Il confine dov'è? Un nuovo mondo che ancora devo scoprire, ma il confine dov'è? Il confine dov'è? Se puoi scoprire significa definire quel confine dov'è? Il confine dov'è? Su quest'isola trovo ristoro, il sole si assottiglia, sulla riva scrivo una postilla, all'orecchio una conchiglia mi consiglia e non so dire se è lei o è solo il mare che bisbiglia. Affido il foglio a una bottiglia perché scriverla significa che voglio condividerla a mille miglia, è la corrente a spingerla, la guardo farsi piccola mentre scivola timida sull'acqua limpida. Non hai una posizione sopra le cartine, ma il confine dov'è? Il confine dov'è? Tu puoi sfuggire allo schema di queste linee, ma il confine dov'è? Il confine dov'è? Un nuovo mondo che ancora devo scoprire, ma il confine dov'è? Il confine dov'è? Se puoi scoprire significa definire quel confine dov'è? Il confine dov'è? Si sentono spesso i rapper dire che nei loro testi riescono a togliersi la maschera che tengono quotidianamente ed essere se stessi quindi per un po'. Come vivi il rapporto con la tua espressione artistica? Sì, appunto l'identità, quindi è un po' curioso, perché da un certo punto di vista l'arte è uno spazio di espressione potenzialmente libera e quindi sì, un luogo in cui essere se stessi. Allo stesso tempo però io credo ogni autore, che sia un autore di canzoni ma di qualsiasi altro tipo di testo, non solo scritto, ecco, si deve sempre mettere un po' nei panni dello spettatore o del lettore, di chi ci sarà dall'altra parte. E quindi inevitabilmente penso che quello che faccia ciascuno scrittore, autore, sia comunque dare vita a una costruzione, a un artificio. Questa è un po', credo, sia l'identità artistica. E quindi c'è sempre questa ambivalenza tra qualcosa che è spontaneo e liberatorio, essere se stessi, allo stesso tempo però essere anche sempre un po' costruiti. Non è mai possibile rendere conto pienamente di se stessi, no? Se stesso, ma quale? Mi chiedo spesso rispetto a questa cosa. Quindi c'è un po' questa ambivalenza e credo che questo sia proprio uno dei temi che mi stanno più a cuore, questa dialettica tra la persona e la maschera, il personaggio. Il prossimo brano ha un titolo importante, Il cognome di un grande della musica. Il brano che si intitola Bowie, un titolo che può essere apparire un po' pretenzioso, anche perché non è un tributo, diciamolo, non nasce come idea di un brano tributo, ma come istantanea di un evento, di un episodio. Io con una mia amica stavamo andando alla mostra di David Bowie, che era qui quando era qui a Bologna, e non siamo riusciti a entrare perché era sold out, molto semplicemente. E quindi niente, da questo episodio ne è nato il racconto. Ci siamo ritrovati a parlare un po' dei nostri progetti artistici, perché anche lei fa musica, è un artista, e quindi un po' a riflettere sull'arte. È stato un bel pomeriggio e ne è nato questo testo, diciamo, da questo evento. Bowie però, anche se non è un tributo, è ben presente sullo sfondo. Abbiamo voluto comunque tributare, anche se in un modo un po' così di striscio, diciamo, a un artista che comunque rimane ovviamente immenso. Bowie, Messia. Ci siamo persi David Bowie, arrivati tardi e con davanti chilometri di fila dei paganti, e non è facile trovare un posto che sia tuo quando sei uno tra i tanti. Su 7 miliardi, sold out, ti separano barriere, ti si parano davanti e si perde l'occasione. Piuttosto che accodarsi o farsi agganci col portiere, meglio ripararsi anche perché piove. Ok, ma dove? eviterei affollamento nei bar del centro. Vorrei un appartamento giusto per un po' di calore. A posto dai, conosco un posto stupendo. C'è un bel gazebo, forse ha pure i tavolini dentro. Ci saranno i grandi nomi, i grandi attori, i grandi autori sotto i riflettori. Ma quelli non saremo noi, signore e signori. Se quelli non saremo noi, saranno famosi. Ci saranno i grandi nomi, i grandi attori, i grandi autori sotto i riflettori. Ma quelli non saremo noi, signore e signori. Se quelli non saremo noi, saranno famosi. Signore e signori, rifugiati nel locale a bere le tisane, lungo il corso di un canale, flusso di energie creative, mancano idee chiare sulla scelta delle bustine, l'espositore pare offrire un milione di alternative, incerto, cercavi di non soffrire, certo, se scegli piangi quello che hai perso, vorresti te al sapore di universo, essere te insieme, essere diverso. Sarebbe bello creare nuove fragranze unendo il conte grigio al principe del Galles. Il duca bianco è Starman, ma più importante, le mani calde attorno a una tazza fumante. Ci saranno i grandi nomi, i grandi attori, i grandi autori sotto i riflettori. Ma quelli non saremo noi, signore e signori. Se quelli non saremo noi, saranno famosi. Ci saranno i grandi nomi, i grandi attori, i grandi autori sotto i riflettori. Ma quelli non saremo noi, signore e signori. Se quelli non saremo noi, saranno famosi. Signore e signori, saranno famosi. Saranno famosi. Signore e signori. Pensi che oggi buona parte degli artisti rap, trap, percorra delle strade proiettate più al successo commerciale piuttosto che alla necessità di raccontare veramente qualcosa? Beh, sì, ecco, assolutamente, dici bene. È un po' questo il discorso. Sembra che a volte quella del puntare al successo sia una prerogativa assoluta per gli artisti e pare che si debba valutare gli artisti anche in base alla loro capacità poi di intercettare visibilità, di fare numeri, eccetera. Mentre il concetto del brano, in particolare del ritornello, è un po' proprio quello di ribaltare questa cosa e andare in cerca di qualcosa di diverso, che fondamentalmente sarebbe una pace, un equilibrio, uno stare bene oggi, ora, che penso sia una grande conquista. Poi se attraverso questa ricerca si arriva anche a intercettare un pubblico, ovviamente è sempre auspicabile ed è sempre una speranza e un sogno che anche è presente. Però anche, insomma, sì, ci voleva un po' una voce un po' in contrasto, secondo me, con questa tendenza. C'è bisogno anche di dire questo, direi. Proseguiamo il nostro viaggio nella musica di Messia con un altro suo grande successo, Matondo. Alberto, in questo brano sembra tu abbia fatto una riflessione sul nostro pianeta e sulle nostre vite. Esatto, molto modestamente io rifletto sull'universo ed è quello che è successo. No, scherzi a parte, è vero, è un brano che un po' oscilla tra una dimensione di introspezione, ma nell'ottica che ciò che vale su un livello personale possa essere anche fatto valere per il mondo, intendendo così noi come collettività, come uno. È un po' questa l'idea, cioè che i miei problemi di autostima non siano tanto diversi dai problemi di autostima che sta attraversando l'umanità in questo periodo, no? In cui c'è molto l'idea che siamo il male sul pianeta, che siamo noi un virus, che siamo di troppo, che siamo troppi. C'è molta disaffezione verso noi stessi. E sebbene io penso ci siano certamente molte cose da criticare su cui sia bene riflettere, ci vuole penso anche un atteggiamento invece di affettività e di amore verso se stessi, perché poi è quello che è alla base di ogni cambiamento e non certo invece una critica feroce, no? Essere sempre là a vedere il lato brutto delle cose. io ho scoperto questa cosa dentro di me e ho cercato di portarla fuori dicendo: raga, vedete se vale anche per voi, non lo so, forse è una, può essere d'aiuto. Questa è un po' l'idea. Con Matondo a The Show Must Go On, Messia. Hey. Non so inventare un capolavoro, né diventare noto, famoso, non so vivere di getto, nell'abbandono, tenendo per buono quel che sono e ciò che ho. E questo viaggio, tutto sommato, non è come speravo, come lo immaginavo. Guarda oltre ciò che non hai trovato, a volte i continenti si scoprono per caso. Sarai piccolo, insignificante, ma dalla tua hai un potere gigante. Trai nutrimento dal circostante, assorbimento costante, crea nonostante non ti senta in grado di farlo. E l'ideale da inseguire sia sempre altro, alto, imperfetto, insicuro, diviso, anziché numero uno. E anche se non è speciale, va bene così com'è, così com'è. Non è molto originale, va bene così com'è, così com'è. Ma per oggi può bastare, va bene così com'è, così com'è. E anche se poi è normale, va bene così com'è, così com'è. E non ci posso fare molto, spesso questo mondo appare capovolto. Ma piuttosto che voltare il volto, non mi sposto, mi confronto, metto in gioco e gli chiedo verità. E lui mi risponde che è povero e che non ne ha. Che molto lo fa il quadro, pezzi di puzzle, il disegno universale, non lo vediamo. È da molto che cerco diventare diverso, ritrovare me stesso. Certo che trovare successo avrebbe permesso di cambiare posizione. C'è sempre questa voce, dice che ciò che sei non può bastare, che devi cambiare, aggiustare il difetto per essere speciale. Un modello perfetto e originale, diverso dagli altri che in fondo sono come te, con la tensione di essere superiore, ansia da prestazione. Ora che i divi sono simili a persone, sembra basti volerlo per diventare come. Ma la vita non è come credevo, sporca le dita, manca il pennello e il disegno, più che un progetto è un pasticcio sui bordi, colori ad acquerello. E anche se non è speciale, va bene così com'è, così com'è. Non è molto originale, va bene così com'è, così com'è. Ma per oggi può bastare, va bene così com'è, così com'è. E anche se poi è normale, va bene così com'è, così com'è. E anche se non è speciale, va bene così com'è, così com'è. Non è molto originale, va bene così com'è, così com'è. Ma per oggi può bastare, va bene così com'è, così com'è. Non è molto, ma chi vuole può restare, va bene così com'è, così com'è. Così com'è. Matondo, qui a Radio Città Fujiko. Prima di salutare i nostri ascoltatori, Alberto, vorremmo ascoltare un altro tuo inedito. E noi l'inedito ce lo abbiamo e si intitola Ladro di Idee. Anzi, a volerla dire tutta è anche il brano, non so, vogliamo dirlo, Turo? Sì, dai, possiamo annunciarlo già in anteprima. Questo brano, Ladro di Idee, darà il nome al prossimo disco di Messia. Andiamo ad ascoltare questo brano in anteprima. Ladro di Idee, Messia. Raga, ci vuole un'idea per il video, qualcosa di creativo per svelare il dispositivo. Come si crea, che vada sul riflessivo, che sia specchio del reale, monta l'obiettivo. Obiettivo, ce l'ho, ce l'ho. Restiamoci nel video, filmiamo mentre lo progettiamo, mentre diventa vivo. Apriamo su noi che cerchiamo l'idea per il video. Dico, ci vuole un'idea, poi dico, ce l'ho, ce l'ho. Credo di essere impazzito, sento in cuffia ciò che dico, perso in un bicchiere d'acqua come Narciso. Così si struttura un loop infinito, ci ho inserito dentro la stesura. misura. Ho fallito e lo sapevo, doveva finir così, non volevo rappare in camera né fare un video street, se no l'unicità sparisce come MTV. Forse al posto mio potremmo metterci un mio amico. E non so bene cosa dire, e non so bene cosa fare, mancano idee chiare, posso improvvisare, ma come sarà questo finale, cosa dire non lo so. E non so bene cosa dire, e non so bene cosa fare, posso improvvisare, mancano idee chiare, forse qualche idea per il finale la ruberò. Rimo da quando Marra diceva rimo da quando, Gue non diceva rimo da quando, c'è che da quando rimo, provo a dire qualcosa che non sia stato detto, non sono autocelebrativo, sono molto meglio, è intrattenimento con parola, non sarà certo un pezzo ad inventare una lingua nuova, in fondo non può un rapper cambiare il mondo, se non l'ha cambiato Dargen con vizi di forma, uso termini che non invento, che hanno senso, emetto suoni, riproduco ciò che sento, atto spontaneo, autentico. Ritratti escono dal quadro, a tratti provano a prenderlo. La teniamo questa, ok perfetto, l'alterniamo alle riprese sulle mura del castello. Ecco, vecchio, il finale per il video finisce con me che dico i grandi artisti non citano. E non so bene cosa dire, e non so bene cosa fare, mancano idee chiare, posso improvvisare, ma come sarà questo finale, cosa dire non lo so. E non so bene cosa dire, e non so bene cosa fare, posso improvvisare, mancano idee chiare, forse qualche idea per il finale la ruberò. E non so bene cosa dire, e non so bene cosa fare, posso improvvisare, mancano idee chiare, mancano idee chiare, mancano idee chiare, ehi. Messia, Turo, noi vi ringraziamo per essere stati i nostri ospiti, per averci fatto riascoltare alcuni dei vostri successi e per averci fatto sentire due dei vostri inediti in anteprima. Oh beh, grazie a voi, è stato un piacere essere qui e tornare a suonare dopo tutti questi mesi di stop obbligato, quindi grazie, speriamo di rivederci presto, magari quando sarà uscito il disco, se ci sarà modo, in futuro. Grazie mille infatti per questo piccolo mini concerto intimo e alla prossima. Io vi ricordo l'appuntamento con Giù la mascherina che uscirà mercoledì alle 14 dove Messia si racconterà ai nostri microfoni in una video intervista. Da Valeria Lopa è tutto, noi ci risentiamo giovedì prossimo sempre alle 16:30 e sempre qui su Radio Città Fujiko con nuovi artisti, nuove storie e nuove emozioni. Questo programma è stato presentato da Florian Cine TV e Radio Città Fujiko 103.1 FM con il patrocinio del Comune di Bologna e di Bologna UNESCO City of Music.